America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24. Questa volta trasmetto da Roma. Sono a Roma per partecipare a un convegno, per partecipare alla giornata dell'innovazione, dove discuterò anche di un libro al quale ho collaborato proprio su casi di eccellenza italiani all'estero, aziende italiane che sono riuscite a fare grandi cose. Nel contesto di questa giornata ci sono i premi al Quirinale. Il Presidente della Repubblica consegnerà dei premi proprio per l'innovazione a imprenditori e aziende che hanno avuto delle dimostrazioni di eccellenza proprio nel contesto dell'innovazione. Il ministro Renato Brunetta, col suo ministero, il Ministero proprio per l'innovazione, è il promotore di tutta questa manifestazione e dunque l'ho con me ai microfoni di America 24 per discutere di innovazione in Italia e di sfide che le aziende italiane possono avere nel momento in cui vanno all'estero. Buongiorno ministro. Buongiorno a voi. Allora, intanto una breve sintesi. Noi abbiamo fatto questo libro, un libro che abbiamo fatto in collaborazione con l'ICE. Ci sono 18 casi di eccellenza italiana, aziende che hanno vinto dei concorsi internazionali grazie ad alta tecnologia e a un impatto sull'ambiente, quindi la combinazione alta tecnologia sviluppo ambientale. Ecco, è una cosa che può sorprendere qualcuno, perché poi soprattutto all'estero, quando si parla d'Italia, si pensa più alla moda, alla pizza, al ristorante, al bel posto al mare e così via, così via. Lei è, come dire, il punto di riferimento per promuovere l'innovazione. Prima domanda: come riusciamo a far sì che non siano dei casi isolati, ma che ci sia un'Italia dedicata all'innovazione, dunque aperta a recepire tutto quello che viene con l'innovazione? Ma vede, l'innovazione non può essere appannaggio di un piccolo gruppo di attori. L'innovazione, per poter funzionare, deve avere una sua andamento di sistema. Cioè, innovative devono essere le famiglie, i nostri ragazzi a scuola, la scuola, l'università. Innovative devono essere le aziende pubbliche, la pubblica amministrazione. Innovative devono essere le imprese. Cioè, questo triangolo di tessuto economico, sociale, privato e pubblico e individuale, deve essere sincronizzato nell'innovazione, perché io posso essere come azienda assolutamente innovativo, dopodiché mi arriva una cartella pazza delle tasse cartacea e perdo metà del mio tempo per risolvere un problema con il fisco, oppure mi si ammalano 10 operai, mi bloccano la linea di produzione e io non ho l'informazione necessaria perché ho ancora i certificati medici di carta che mi arrivano con raccomandata cartacea una settimana dopo, per cui non posso riorganizzare il lavoro nella mia azienda e così via. Quello che sto cercando di fare io è far funzionare la triangolazione in maniera sincronica. Intanto lo Stato deve essere al top della frontiera dell'innovazione. Ho fatto l'esempio dei certificati medici perché questo è una cosa che ho già fatto, che sto facendo, e cioè in Italia i lavoratori pubblici e privati non devono più da un anno spedire la raccomandata cartacea all'INPS e al loro datore di lavoro, perché questo lo fa il medico online che compila il loro certificato medico online. L'azienda dovrebbe ricevere dall'INPS online il certificato e tutti dovrebbero avere un vantaggio. I lavoratori non spendono più i soldi per spedire le raccomandate, l'azienda conosce immediatamente le assenze con i relativi controlli dei suoi dipendenti e l'INPS può fare tutti i controlli rispetto ai contributi versati e così via. Bene, per esempio, dentro questa triangolazione, con mia grande sorpresa e soddisfazione, l'INPS al top della tecnologia, i medici, nonostante qualche mugugno, hanno accettato volentieri, ma tutti erano super attrezzati con i loro computer e fanno tutti centinaia di migliaia di certificati al giorno, e con mia grande sorpresa, ad essere arretrate sono le imprese, che ad oggi non hanno ancora l'attrezzatura culturale, organizzativa, di lavoro, tecnologica, per ricevere questi certificati dall'INPS e giocarsi questo vantaggio di innovazione e in termini di organizzazione del loro lavoro e di controlli, di efficienza, produttività. Ecco, sto veramente investendo molto del mio tempo proprio per, a questo punto, stimolare le aziende a essere innovative dal punto di vista dell'organizzazione aziendale. È un elemento preoccupante, perché se moltiplichiamo per 10%, perché i certificati medici sono solo uno degli aspetti, quello che si perde in termini di produttività dalla mancanza di innovazione tecnologica, per esempio elettronica, c'è veramente da preoccuparsi. Ma allora le chiedo, non sarebbe il caso di dare un incentivo fiscale alle aziende? Dire, beh, se voi investite in alta tecnologia e raggiungete certi obiettivi di produttività sulla base della vostra attrezzatura informatica, avrete un ammortamento accelerato, per esempio. Ecco, è possibile immaginare ammortamenti accelerati per investimenti in tecnologia? Ma sì, anche solo che, dati i tempi dal punto di vista della finanza pubblica, pensare di agevolazioni che diminuiscano gettito penso sia impensabile. E il mio buon amico Tremonti mi sparerebbe da qualche parte se proponessi una cosa di questo genere, però probabilmente non è neanche necessario, anche perché non è tanto un investimento finanziario, per esempio nel caso specifico quello dei certificati di malattia, è un investimento culturale. Evidentemente l'azienda non è ancora organizzata per ragionare in termini elettronici, è rimasta al fax. Le aziende non investono, ma è colpa di una mentalità o è colpa di un sistema che non le incoraggia? È mentalità soprattutto, e anche di dimensione. La piccola dimensione delle nostre aziende è sia una potenzialità straordinaria, ma è anche un'arretratezza quando la dimensione non si unisce l'innovazione. Le faccio una provocazione. L'altro giorno Steve Jobs ha presentato l'iCloud. Se lei fa un test su 100 imprenditori italiani e chiede loro: sapete cos'è la nuvola? Ti diranno: beh, la nuvola è quella cosa che c'è in cielo che si guarda per vedere se piove oppure no. Se lei avesse la bacchetta magica e potesse dire: beh, a questo punto sono contento perché so che il paese è pronto a recepire l'innovazione, che cosa farebbe? Io darei un piccolo computer a tutti gli studenti delle scuole elementari. Possiamo lanciare la proposta qui da America 24? Ah sì, certo, ho fatto anche i conti. Con 50 milioni di euro potrei realizzare questo sogno, perché questo piccolo investimento porterebbe a cascata una rottura di paradigma totalizzante nei bambini, certamente, nelle loro famiglie, certamente, nel mondo delle imprese. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Oggi, 14 giugno, esce il nuovo album del violoncellista e compositore Eric Friedlander, icona della scena jazz sperimentale newyorkese. Il disco si intitola Bond Bridge. Ascoltiamo uno dei brani di Friedlander, Tabata. Da Roma è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.